24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Ben ritrovati da Valeria De Rosa a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano il 20° anniversario della prima direttiva sul mercato unico del 1992. Collegato in teleconferenza con Bruxelles, Mario Monti ha affermato che il Nobel per la pace attribuito all'Unione Europea è la testimonianza della capacità del progetto europeo di superare l'eredità di due guerre con il processo di integrazione legato alla costruzione del mercato unico. Il ministro dell'Economia Grilli ribadisce che l'Italia non ha bisogno di aiuti dall'Europa e afferma che i mercati già ci stanno dando fiducia. In evidenza anche le sanzioni decise dall'Unione nei confronti di Siria e Iran. Bisogna consolidare le decisioni prese dal Consiglio europeo di giugno sulla stabilizzazione dei mercati dei titoli sovrani e sulla ricapitalizzazione diretta delle banche da parte dell'ESM, il Fondo di Salvataggio Permanente dell'Eurozona, non appena sarà stato creato e sarà in funzione il meccanismo unico di sorveglianza bancaria. Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Mario Monti, in un discorso trasmesso in teleconferenza al Parlamento europeo ieri a Bruxelles per la celebrazione del 20° anniversario della creazione del mercato unico. Alla vigilia del Consiglio europeo del 18 e 19 ottobre, Monti ha insistito dunque sulle due decisioni dell'ultimo vertice europeo. In merito a quanto, forse, alcuni paesi vorrebbero spingerci a fare, ovvero chiedere aiuti, il ministro dell'Economia Grilli è stato molto chiaro. Da Tokyo, dove si è svolta l'assemblea annuale dell'FMI, Grilli ha ribadito che l'Italia non ha bisogno di fondi o aiuti da parte della BCE. Sentiamolo al microfono di Mario Platero. Il nostro governo ritiene di non doversi sottoporre a delle misure di condizionalità e aderire ai fondi che sono stati predisposti in Europa. Ci sono molti invece che premono perché questo succeda. Qualcuno dice anche che se noi non lo faremo saranno i mercati che ci costringeranno a farlo. Cosa risponde? Sappiamo che parte di quello che dobbiamo fare è ridare fiducia ai mercati e ristrutturare un sistema finanziario che è stato danneggiato dalla crisi. Per fare questo, sia politiche fiscali che politiche monetarie che politiche di ristrutturazione dell'economia devono funzionare tutte insieme, quindi non si può pensare che ci sia un solo tipo di politica, un solo tipo di azione che può fare tutto, e quindi l'approccio della condizionalità è proprio in quella direzione. Le politiche monetarie possono aiutare, ma se sono fatte insieme a un'altra serie di politiche indispensabili, quindi devono lavorare insieme. Ecco, i mercati ci daranno fiducia? I mercati penso che ci stiano già dando fiducia, però la fiducia la si acquista con un impegno continuo nell'azione di riforme che stiamo mettendo in atto. Ma torniamo al ventennale del mercato unico. Ormai manca poco al compleanno di una delle più grandi conquiste dell'integrazione europea. La Commissione ha deciso di organizzare, in contemporanea in tutti gli Stati membri, un'iniziativa speciale senza precedenti, la Settimana del Mercato Unico, una settimana di incontri e iniziative per parlare di futuro dell'Unione. Giorgio Mongiat, amministratore alla Direzione Generale al Mercato Interno. Il mercato unico può essere definito come un grande spazio che, nonostante sia composto appunto da 27 paesi diversi, permette la libera circolazione di merci, di capitali, di servizi e naturalmente non da ultimo le persone. Ci vollero molti atti legislativi e 6 anni di intenso lavoro tra il 1986 e il 1992 per arrivare finalmente al 1° gennaio 1993, in cui il mercato unico divenne una realtà. È importante sottolineare che quello del mercato interno è un lavoro continuo. La logica che sta alla base di questo atto per il mercato interno 2 è semplicemente la constatazione che il mercato interno, oltre a dare molte opportunità quotidiane ai cittadini, alle imprese, è anche una fonte di crescita e di impiego. Si calcola per esempio che tra il 1992 e il 2008 il mercato interno abbia generato 2.800.000 posti di lavoro extra e una crescita pari al 2,13% del PIL europeo in più. E quindi è per andare a cercare questo potenziale di crescita ulteriore nel mercato interno che è stato adottato questo atto per il mercato unico. Do degli esempi: aprire ulteriormente i servizi di trasporto ferroviario per i passeggeri a società, a imprese che vengano da altri paesi dell'Unione Europea. Questo comporterà chiaramente maggiore concorrenza. Il ministro turco per gli affari europei, Egemen Bagis, ha invitato l'Unione Europea ad accogliere i rifugiati siriani. L'Europa, ha spiegato Bagis, deve cominciare a pensare alle persone che sono fuggite dalla Siria in Turchia. Abbiamo oltre 80.000 rifugiati sul nostro suolo. Ieri, da Lussemburgo, dove si sono riuniti, i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno discusso il rafforzamento delle sanzioni contro il regime del presidente siriano Bashar al-Assad. L'analisi dell'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri. Il linguaggio diplomatico sulla crisi siriana non ci conforta. Tra l'Unione Europea e la Russia sono emerse chiare differenze, ma continuiamo a lavorare sul piano di pace di Ginevra, hanno dichiarato i ministri dell'Unione dopo aver approvato nuove sanzioni a Damasco, trascurando che il piano di Ginevra sembra ormai sepolto. Tra la Russia e la Turchia i rapporti sono solidi, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, ma intanto la tensione sta salendo. I cacciaturchi hanno costretto all'atterraggio un aereo armeno diretto ad Aleppo. I profughi nei campi della Turchia hanno superato quota 100.000, un tetto ritenuto critico dai militari di Ankara, che non rinunciano all'idea di imporre una zona cuscinetto tra i due paesi. Insomma, dove stiamo andando? L'impressione è che le ultime misure prese dalla Turchia servano soprattutto ad oscurare quello che è stato il più grande errore di calcolo in politica estera commesso dal governo Erdogan. Ankara è stata l'ultima nel campo occidentale ad abbandonare il presidente Assad ed è stata la prima a sostenere apertamente i ribelli perché aveva scommesso che il regime siriano sarebbe caduto in breve tempo. Così non è stato. La Siria di Assad ha resistito ed Erdogan si è trovato intrappolato nella crisi e noi, cioè la NATO, con lui. Nella stessa occasione l'Unione Europea ha indurito il pacchetto di sanzioni contro il programma nucleare iraniano. Le nuove misure puntano ad assicurare che le istituzioni finanziarie europee non gestiscano fondi che possano contribuire al programma iraniano o sviluppare missili balistici. Inoltre, sono proibite tutte le transazioni tra le banche iraniane e quelle europee, a meno che non siano esplicitamente autorizzate in anticipo dalle autorità nazionali, sotto strette condizioni. In merito ai flussi migratori, la Commissione è estremamente preoccupata per la situazione creatasi con la liberalizzazione dei visti per i paesi dei Balcani occidentali, che molti cittadini utilizzano in modo improprio, per poi presentare richieste infondate di asilo. Nessuno Stato membro ha finora chiesto di sospendere la liberalizzazione dei visti, ma solo di adottare entro fine anno la clausola di salvaguardia proposta dalla Commissione. E veniamo ai mercati, una giornata all'insegna dei rialzi per le piazze europee, che però sul finale hanno perso terreno. Le borse europee tentano il rimbalzo ma si afflosciano in chiusura nonostante i dati oltre le attese di Citigroup. Sui listini pesano ancora le preoccupazioni sul debito europeo e sul salvataggio della Spagna. E così alla fine il FTSE MIB chiude a più 0,51% e l'All-Share a Milano a più 0,44%. Tra i titoli migliori spiccano Mediaset più 3,3% sull'ipotesi di una joint venture premium Al Jazeera. In pregilo più 1,9%. Avanza il giorno in cui deciderà sulla vendita del 19% di Ecorodovia. Se Finmeccanica più 1,5% va in scia la cordata italiana su Ansaldo Energia, che prende sempre più corpo. In coda al listino ST meno 1,6% al retro dopo il balzo di venerdì sulla scia delle indiscrezioni poi smentite riguardo una possibile valorizzazione del business dei chip per cellulari. Sul resto del listino la peggiore è Marcolin meno 12%. Dopo l'OPA lanciata dal fondo PAI a un prezzo inferiore all'ultimo prezzo di borsa. Ciò Condina da Radio Cor per Radio 24 e Sole 24 Ore. L'inchiesta dell'antitrust europea su Gazprom, sospettata di pratiche anticoncorrenziali sui prezzi nei paesi dell'Est Europa, continua. Stiamo indagando e l'inchiesta sta seguendo il suo corso normale, ha assicurato il portavoce del commissario alla concorrenza Joaquin Almunia. Mosca aveva fortemente criticato la decisione di Bruxelles, accusata di essere politica. Nella prossima programmazione europea ci saranno dei fondi direttamente destinati alle grandi aree metropolitane che non passeranno attraverso le regioni. Lo ha detto il sindaco di Roma, Gianni Alemanno. Saranno fondi destinati a smart city o investimenti ambientali che potranno permettere a città come Roma un dialogo diretto con l'Unione Europea e una spinta maggiore allo sviluppo. Bisognerà attendere altri 2 anni nel 2014, poi comincerà una stagione con un nuovo protagonismo delle città. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Un ringraziamento in regia a Daniele Teruzzi e un saluto da Valeria De Rosa. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.